Vai. Niente, no, credo che a quel punto avresti introdotto te stesso. Comunque, per quanto riguarda il gruppo, siamo nati nel 2010, sì. dalle ceneri di gruppi discutibili. Sì, che non citeremo. Tipo gli All True. Quindi siamo insieme da un paio d'anni. Gli altri non ci sono, ma porteremo noi. Sì, ma stanno nei nostri cuori. Sono nei nostri cuori. E niente, quindi il progetto è iniziato perché volevamo tutti suonare insieme, visto che siamo comunque prima amici che bandmates. E niente, per noi, adesso dirò una cosa sdolcinata, anzi per me è come un sogno questo del gruppo, è come un sogno. Bravo, sei proprio inerente. Mi hanno pagato per dire questa cosa, però no, scherzo, è diciamo l'unico problema, poi il tempo che abbiamo a disposizione, ma siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo. Sì, perché ci diverte molto e niente, siamo degli amichetti. Siamo degli amichetti che rockeggiamo insieme. Vabbè, siamo tanto contenti. Okay. Questo è quello che volevi dire. E poi volevamo dire che siamo riusciti a far uscire un EP, quindi neanche un disco, mezzo, però in questo tempo è quello che ci siamo riusciti a fare, e che si chiama Immaginarie linee matematiche tra cielo e terra. Quindi anche questo un pochino rientra nel tema della puntata, secondo noi, perché non sappiamo nemmeno noi cosa volevamo dire con questo titolo, però ispira temi sognanti che poi raccontiamo in alcuni dei pezzi. E allora, a proposito appunto di questo EP, andiamoci a sentire una canzone appunto tratta dall'album, che è Majorana aveva ragione. Però prima, insomma, di andarla ad ascoltare, raccontateci un po' com'è nato questo brano, insomma, è proprio che inizia tra l'altro l'EP. Sì, inizia l'EP, è probabilmente il pezzo più vecchio di tutti, sì, quelli che sono nell'EP. È stato il secondo pezzo che abbiamo fatto, nel 2010, quindi vi portiamo musica nuova. Ma no, a parte tutto, è comunque abbastanza significativo per noi, perché appunto, essendo uno dei primi, ha diciamo mischiato tantissime cose delle nostre influenze, quindi un po' quelle aggressive, un po' quelle più sensibili barra, quindi e niente, questo pezzo parla essenzialmente un po' di Majorana, Ettore Majorana, e, sì, e del fatto che aveva ragione, perché Massimo ci dirà perché se n'è andato. È scappato. Majorana era un fisico che insomma è scappato. Beh, oddio, diciamo che poi nella seconda traccia diciamo che aveva torto. Esatto, quindi ci contraddiciamo. Però quindi bisogna ascoltarlo tutto per capire alla fine se Majorana aveva ragione o torto. Poi via televoto per capire se aveva ragione o torto. Esatto. Cioè, ormai ci si deve inventare queste cose, perché ci sono così tanti gruppi, bisogna inventarsi nuovi modi di promuoversi, e quindi via il televoto. E allora sì, mentre diamo via appunto al televoto se Majorana aveva ragione o torto, ci andiamo ad ascoltare la prima traccia, appunto Majorana aveva ragione. se io fossi stata maiorana, comunque probabilmente me ne sarei andata in California. Quindi ci sentiamo i Beach Boys con California Dreaming, appunto. All the leaves are brown, and the sky is gray. California si sognava pure in Italia, e i Dick Dick rifecero questa canzone in una maniera veramente splendida. Cielo grigio su, cielo grigio su. Ritorniamo qui appunto in studio, e in tema di cover chiediamo a Liasenberg qual è appunto, se hanno in progetto, insomma, di canzoni cover, quali e perché hanno scelto proprio quelle. io personalmente ho sempre sposato l'idea, gli altri un po' meno, e, però ricordo abbiamo provato anche a fare il giorno del sole, denegazione e senza riuscirci, e, cioè senza riuscirsi. Sì. E invece vabbè, immagine proprio professionale. E mentre adesso stiamo preparando due cover, una dei Laghetto, che andrà a far parte di un tributo appunto a questo gruppo, e di cui fa parte anche la nostra amica Lily Refrain. E niente, oggi proprio dislessia, oggi è la puntata della dislessia. E tema dislessia. La seconda cover che andiamo a preparare per voi è di un gruppo italiano che si chiama Fluxus, e in verità non sappiamo neanche quale andremo a fare, ma insomma sono due gruppi completamente diversi. Uno, il Laghetto, rappresenta un po' il punk hardcore insomma italiano. Sì, che è stato cioè fine anni 90, inizio 2000. Fine anni 90, inizio 2000, mentre i Fluxus credo siano un po'... invece proprio anni 90. Anni 90, un po' più... però diciamo che il genere è molto diverso, new wave, sempre un po' post-punk, quindi... Allora, a proposito di genere musicale, voi come insomma vi definite musicalmente... Non ci definiamo moltissimo, però diciamo, cioè, quali sono diciamo magari i generi o comunque che più sì, vi diciamo, si addicono? Abbiamo cominciato a suonare, non ci siamo posti il problema, quindi poi abbiamo suonato così. Ci è venuto, che alla fine è post hardcore con tratti emo core, basta, con qualcosa pure qualcosina di post punk forse. Quali sono stati, vabbè, facciamo quello che ci pare, ecco. I gruppi o comunque dei musicisti che un po' hanno influenzato in qualche maniera, a cui qualcuno di voi sicuramente si ispira, o potete anche dire che nessuno, che avete sperimentato totalmente tutto originale, tutta farina del nostro sangue. No, ma io dico influenzato, non copia, cioè è differente comunque. Vabbè, al di là di tutti i gruppi che ci piacciono, ne sono 6 milioni di miliardi, però magari quelli che più insomma sono, che ci hanno influenzato proprio in queste canzoni, magari un po' dell'hardcore anni 80, denegazione, un po' del post hardcore del anni 90, direi. Questo è abbastanza generico perché non saprei dire un nome. Vabbè, sì, anche insomma urliamo, almeno io urlo, quindi sì, diciamo pure lo scrimo, ecco. Lo scrimo adesso forse lo ascoltiamo meno, e quindi probabilmente ci ha influenzato più nel subconscio, e sicuramente cioè ci stiamo muovendo leggermente più verso lidi meno diciamo simili ai La Quiete, ai Rain, questi gruppi italiani ancora attivi, però importanti insomma nelle nostre preferenze musicali. E diciamo che quello che dove ci piacerebbe andare è un po' verso qualcosa ancora di più nostro, quindi sperimentare un po', diciamo, non nel senso psichedelico, però ecco di suoni distorti, malati essenzialmente, quindi anche melodici, malati e melodici. Diciamo che un po' quello che secondo me ci caratterizza è un po' questo mischione di cose, e sì, almeno io ci ritengo un po' una sorta di ibrido fra appunto cose abbastanza molto dure, cioè i Converge, alcune cose di gruppi noise, piuttosto che molto hardcore le abbiamo, prettamente hardcore tipo anni 80, tipo Negazione, eccetera. Però poi andiamo a intingere anche da cose molto ultra melodiche, sì, da quali appunto gruppi super super emo, adesso non, sicuramente non i Cap'n Jazz, però ecco i Tokyo Hotel. Fantastici. I Tokyo Hotel. No, soprattutto per i capelli, immagino. Sì, sì, sì, sì. Non puoi diventare come lui. E volevo chiedervi un'altra cosa: fare questo genere musicale in qualche maniera, comunque a Roma, comunque in Italia, quali difficoltà comporta, oppure anche nel senso cosa significa in generale appunto confrontarsi anche con altri tipi di musica, o appunto anche con quello che è il panorama musicale in generale? Vabbè, direi che diciamo in generale non piace a molte persone, quindi diciamo il seguito è sempre di poca gente, perché non so, diciamo più che altro è questo il problema. Sì. Vabbè, problema, diciamo, no, no, in realtà non ce lo poniamo più di tanto. Il problema non c'è, abbiamo suonato per qualunque tipologia e numero di persone, continueremo a farlo. Per quanto mi riguarda, io ho sempre sentito tantissime cose, diciamo, americane, però anche europee, quindi tutti i gruppi italiani che hanno fatto quello che cerchiamo di riprendere un po' a noi, sono importanti, tipo i With Love, gli Eversor, i Miles Apart, tutta questa, insomma, sfilza di gruppi, chi più chi meno melodici, però della scena, brutto chiamarla underground, però questo è, italiana. Quindi, come ci rapportiamo? Noi cerchiamo semplicemente di suonare che piaccia a qualcuno che non sia le nostre madri, infatti a volte è difficile anche quello, quindi. E poi l'altra cosa che facciamo è cerchiamo di andare a ricoprire il lato estetico, perché anche l'occhio vuole la sua parte, quindi cerchiamo di siamo bellissimi confermo, facciamo sfilate di moda ogni tanto, se vabbè, che serve sicuramente corpo. Serve sì, poi sì. Per il genere musicale, sì, penso sia perfetto, sì. Diciamo, non campiamo con la nostra musica, però no, vabbè, era il caso per fare la, diciamo, attaccarci il discorso che ci teniamo molto alla visualizzazione della nostra musica, quindi la parte grafica, che c'è stata sempre curata da amici o comunque persone che stimiamo, cerca un po' di rappresentarci al meglio e niente, quindi abbiamo fatto uscire questo EP che dicevamo prima in CD, e poi in vinile, e curata da un nostro amico che si chiama Yost, e niente, abbiamo cercato di dare un po' di più a questo prodotto, facendo una serigrafia per esempio sul vinile, sul lato non inciso, piuttosto che riprendendo, no, i temi di cui parliamo nei testi, poi nelle grafiche. Allora, appunto, ritornando all'EP di cui prima abbiamo sentito una traccia, adesso ne ascolteremo un'altra, che è Incontrarsi a Copenaghen. Vi va un po' di raccontare questo brano, insomma, da dove nasce, anche qual è la tematica? La tematica di questo brano è molto personale, è legato a una verità, sembra tutt'altro, comunque a una persona, o alla perdita di persone e o cose, e quindi, diciamo, questa tematica. E per quanto riguarda il contrasto, oppure, diciamo, la peculiarità del titolo, è più riferito all'incontro tra Heisenberg, che è appunto il fisico, e l'altro, appunto, il suo collega Niels Bohr a Copenaghen, in un anno imprecisato, alla fine dell'Ottocento, credo. 800. Qui 800, vero? No, 900, vabbè, insomma, quello che è. Ed è un incontro molto, molto discusso, perché aveva, diciamo, del mistero attorno a questo, perché da quel giorno in poi sono successe cose strane, sì, sia all'uno che all'altro, quindi un po' ci è piaciuto raccontare, accostarci questa tematica a quello che dicevo prima, che comunque è una tematica più personale. E allora ce ne andiamo ad ascoltare Incontrarsi a Copenaghen e poi continuiamo con l'intervista. Scusami, E adesso passiamo invece a un pezzo, diciamo, suggeritoci dagli ascoltatori. Ci sentiamo Julia Dream dei Pink Floyd, un pezzo non troppo conosciuto, ma comunque bello, bello, bello. Eccoci qui appunto quasi sulla fine appunto dell'intervista. Vi chiediamo se e come, diciamo, la vostra carriera musicale si è interfacciata con i locali o comunque con altri, insomma, luoghi dove c'è musica, appunto, dove si fa musica e cultura a Roma. Cosa significa anche in questa città in qualche maniera destreggiarsi tra difficoltà varie, tra i quali, no, un genere musicale o comunque, no, locali sempre comunque che hanno sicuramente delle caratteristiche e vogliono anche che ci sia, no, un determinato tipo di musica, e quindi cosa significa far girare musica, insomma, indipendente, giovane e nuova. E io in un modo o nell'altro, e sembrerò vecchio e presuntuoso dicendolo, però ho organizzato concerti da quando avevo 16 anni e adesso ne ho 45, quindi fatemi un calcolo. E quindi ovviamente comunque li porta bene. Grazie. Organizzati Ramones. e niente, quindi ho vissuto un po' questa situazione dei locali. Non voglio nemmeno dire che ho organizzato un concerto alla settimana, né appunto quello dei Ramones, però quello che ho sempre fatto è sempre organizzare da solo, quindi ultimamente ho mollato la presa perché è diventato una fonte di stress abbastanza grande, e con il lavoro non riesco a sopportarla. Però riguardo alla situazione qui a Roma, diciamo che in verità ci sono sempre stati e ci saranno sempre tanti locali. Il problema è più che altro diciamo la gestione di alcuni di questi, che può essere appunto sia il locale che il centro sociale, oppure l'associazione culturale. Diciamo più è una questione di disponibilità a far suonare, no? gruppi più o meno emergenti, e quindi quello che è successo nel mio caso è sempre di aver dovuto organizzare gruppi americani o comunque che venivano dall'estero, e poi diciamo usare i gruppi spalla del logo. Ora direte grazie al cosiddetto, però la cosa forse che poteva essere interessante parlare o diciamo esplorare era quella di della scena più romana, e comunque ci sono tante iniziative anche per promuovere questa, credo che ce ne sono molte di cui può parlare anche Lili dopo, però niente, essenzialmente ci sono ancora i locali, ma diventa sempre più stressante, difficile per più che altro anche questo. Con questo chiudo diciamo lo sbrocco del vecchio, però il discorso è anche non solo i locali, ma anche la gente che va a vedere i concerti, ovvero che Roma, essendo una grande città, si frammenta il pubblico in tantissime serate magari simili che succedono allo stesso tempo, quindi oppure c'è una pigrizia abbastanza forte nel romano medio che ama la musica, che evidentemente non l'ama abbastanza da potersi recare al locale. Sicuramente poi c'è la mancanza dei mezzi e della fruibilità delle biciclette, di tutto questo che non rende la cosa facile, però questa è una cosa che insomma mi ha fatto molto male, no? Quando ci si mette tutta l'anima e tutto il corpo a organizzare qualcosa, perché comunque anche una cosa molto che non si sa spesso è che dietro una data, per quanto piccola o grande possa essere, ci va un sacco di lavoro e salta il gruppo, insomma, piuttosto che gli strumenti, i soldi, quindi è diciamo un lavoro, un secondo lavoro, e per chi non lo fa come primo lavoro non è gratificante se non ci sono delle soddisfazioni dal pubblico. E allora, andando diciamo sul finire di questa intervista, vi chiediamo quali sono appunto i vostri contatti, insomma, per cercarvi su internet, come possiamo fare, diciamo. Allora, su internet ci trovate su Bandcamp, perché MySpace è morto, sì. All'indirizzo che ci dirà Massimo? Eisenberg.bandcamp.com. Non eri sicuro, però hai passato. Sì, no, così. Okay. Vi si può accedere anche tramite la pagina Facebook. Esatto, che curiamo con attenzione. Sì, scriviamo tantissime cose intelligenti. Sì. Citazioni, qualsiasi cosa. Ci trovate, in verità questi sono gli unici due posti dove ci trovate, sì. A parte su YouTube, YouPorn. Lì ci troviamo noi più che altro, Massimo, non ti sbagliare. E vabbè, niente, l'ultima cosa è che non abbiamo date, diciamo, in vista, perché stiamo cercando di scrivere, sì, cose nuove, di fare queste cover, però nel frattempo è uscita questa versione in vinile dell'EP, che è appunto arrivata veramente una settimana fa in 100 copie, quindi in edizione limitata. In verità vuol dire solo che ce ne sono 100 copie, che sono tantissime, quindi non è tanto limitata, serigrafata, inserto, grafica, quello che volete, gadget arriveranno le magliette, quindi se volete ci trovate con questi contatti e anche al negozietto online, oppure come ho fatto oggi, verrò a portare il disco a casa, perché oggi ho fatto il fattorino e sono andato al terzo piano di un nostro fan che ci ha comprato addirittura, sì, era vicino casa mia, per non spendere 8 euro che arrivava magari fra un mese. Ho fatto così. Poi nudo ci sei andato, nudo, no? Nudo, per la parte estetica che dicevamo prima, che noi suoniamo nudi, quindi sicuramente questo è un punto a vostro favore. Allora andiamoci ad ascoltare l'ultima traccia, diciamo, che riguarda appunto il vostro gruppo, che è Punto Omega, e insomma raccontateci un po' anche questo brano, così finiamo insomma in bellezza. Vabbè, innanzitutto sono diciamo che sono due canzoni in una, quindi la prima è il Punto Omega dopo il cuore lontano da tutto, la seconda Punto Omega il lamento del tempo. Si rifà un libro di De Lillo che si chiama appunto Punto Omega. La prima parte si rifà al libro di De Lillo, che si chiama appunto Mega. La seconda cioè la prima parte, comunque il, diciamo, il discorso del punto mega. E la seconda parte della canzone inizia con quindi non rubo i testi, è proprio presa esattamente da un racconto di Raymond Carver che si chiama Cattedrale, e quindi la prima parte del secondo pezzo è questa. E niente, poi un po' ci ha dato spunto anche alla copertina del disco. Questa idea è molto, molto bello, questo racconto ve lo consiglio caldamente, anche il libro di De Lillo, però perché lo stile proprio di Carver è bellissimo, però parla, diciamo, di una persona non vedente che inizia a far disegnare a una persona vedente una cattedrale, e insomma questa persona scopre un po' di cose su se stesso che poi vengono insomma esplorate nel resto del testo che ho scritto io. Ci tengo a non passare. Esatto, quindi questo è un po' il discorso di Punto Mega. Niente, sono legate perché ci piaceva avere un pezzo che non durasse 20 secondi come gli altri. Dura 7 minuti. Dura 7 minuti insieme, quindi godetevelo tutto. Non so se lo sentiremo tutto insieme o... Tutto insieme, perfetto. Tutto insieme. Quindi godetevelo così com'è, come mamma l'ha fatto. E allora vi ringraziamo, insomma, per l'intervista che ci avete concesso, e appunto ci andiamo ad ascoltare Punto Mega e poi continuiamo con Lily Refrain. Appena chiudiamo gli occhi tu E adesso appunto invece iniziamo l'intervista a Lily Refrain, che abbiamo appunto chiamato per parlarci un po' dei suoi progetti. Insomma, abbiamo visto quindi una boy band di ragazzi ai tanti, e adesso scopriamo insomma come lavora. Esatto. Sempre ai tanti, ovviamente. Quindi non so se ci vuoi parlare un attimo di come hai deciso di fare questo progetto da sola, e quindi come è iniziato, e poi magari ci sentiamo un pezzo del tuo primo disco. Ok, allora questo progetto, che si chiama Lily Refrain per l'appunto, nasce alla fine del 2006. Prima avevo suonato con diversi gruppi, poi insomma le cose finiscono, è anche molto difficile riuscire ad organizzare diverse teste se magari ti va proprio di fare quello nella vita, e a un certo punto ho detto bah, proviamo da soli, vediamo cosa succede, e è andata bene, quindi si continua. E niente, nel 2007 ho registrato il mio primo CD, che è una totale autoproduzione tutta fatta a mano, con cartoncino Bristol, colla vinili, canestrini, cose carine di casa, e un'opera di bricolage sonora. E nulla, dopo di quella, diciamo che tutto il progetto si struttura sulla sovrapposizione di diversi loop di chitarra elettrica e voci, quindi non uso nessun altro strumento se non chitarra appunto e voce. Nonostante questo non sono assolutamente una cantautrice, perché non scrivo testi, ma tutto il resto sì, quindi suoni principalmente, sono tutte, anche se ci sono le voci, è principalmente strumentale come tipo di musica, diciamo. All'interno ci sono mille mischioni di cose, un po' come gli Heisenberg, e in realtà il genere è completamente diverso, nel senso che è molto ridondante, ipnotico, perché trattandosi di loop ovviamente sono tutte cose che tornano. Infatti Refrain nasce proprio da questo paradosso del ritornello che non arriva mai, ma c'è praticamente una sorta di perpetuo ritornello in tutto. E nulla, è un genere indefinibile, nel senso che all'interno c'è veramente un po' di tutto, e una sorta di completo esorcismo, quindi è comunque molto personale come tipo di lavoro, perciò è totale necessità di espressione, chiamiamola così. Quindi No. Ok, vai. No, dicevo che comunque abbiamo scelto questo pezzo che si chiama Polyfilla Full Non Rocking Chair. Questo qui fa parte del primo CD per l'appunto, ed è un brano dedicato ad un insetto che poi è diventato il mio logo, che è il Polyfilla Fullo, che praticamente è un coleottero che, al contrario della maggior parte dei coleotteri, non vive sottoterra ma vive sugli alberi, e non si nutre di sterco ma si nutre unicamente di aghi di pino. E in realtà ci sono moltissimi coleotteri che, diciamo, sono non coprofagi, e mi piaceva però questa cosa di un piccolo insettino che decide di mettere a repentaglio la sua vita, perché ovviamente vivendo sugli alberi rischia di essere mangiato da qualsiasi uccelletto, scoiattolino, insomma qualsiasi tipo di insettivoro lo mangia, però lo fa pur di non mangiare la merda. E quindi questa cosa, secondo me, beh, diciamo proprio che è un bel messaggio, sì, che ci dà questo insetto. Polifillo fullo proprio uber alles. Ok, e quindi ci sentiamo il pezzo. Ok. Sempre che parta. Thank you. ritorniamo qui in studio Radio Onda Rossa con Lady Refrain. Allora, una domanda che appunto ti volevo fare proprio mentre ti ascoltavo prima è come insomma è nata la passione per la musica, appunto per suonare uno strumento, a quanti anni, insomma, perché, proprio se ti va un po' di raccontarci com'è stato il primo approccio, insomma. Anche questa cosa è sempre iper soggettiva e personale, nel senso che il mio primo approccio con la musica è arrivato proprio in epoca prenatale, nel senso che mio padre e mia madre, quando mia madre era incinta di me, mettevano queste mega cuffie stereo sulla pancia di mia madre per calmarmi, perché ero un po' agitata, e dentro però c'erano tipo i Beatles, i Led Zeppelin, quindi comunque belle vibrazioni. Sì. E poi fortunatamente a casa, cioè insomma, sono cresciuta in una famiglia dove si è sempre ascoltata veramente tanta musica, tanta bella, bella musica, e quindi insomma c'è sempre stata un sacco di familiarità in merito, e mio padre poi era un collezionista, quindi comunque cioè, aveva dei bellissimi dischi, perciò insomma diciamo che non so, sono sempre cresciuta a contatto comunque con un ambiente musicale anche se esterno, quindi ne ho sempre fruito. Poi quando avevo 13 anni ho ricevuto come regalo di Natale una chitarra classica, ho cominciato col giro in do e poi è andata avanti, ho cominciato a suonare con dei gruppi quando ero al liceo. Il primo gruppo storico si chiamava 777, anzi prima Spleen, poi 777, è durato 5 anni, proprio storia d'amore incredibile con questi quattro energumeni al quali voglio ancora molto bene. Senti, che genere facevate all'epoca? Sempre la definizione dei generi per me è un po' sfidata come tipo, cosa. Facevate cover, facevamo, pezzi vostri, facevamo assolutamente pezzi nostri in italiano. Alcuni forse erano anche in inglese, anzi sì, sicuramente, però principalmente in italiano, ed era, ascoltavamo della musica molto diversa, c'era il batterista che veniva più dalla, diciamo, da ascolti punk, hardcore, io ascoltavo molto metal, il bassista era più sul frangente pop, l'altro chitarrista era super grunge, insomma eravamo molto differenti a livello d'ascolti, però riuscivamo comunque a intrallazzare per bene le nostre armonie e... E niente, è durata 5 anni, è stato molto bello, poi però abbiamo deciso di prendere strade diverse, quindi ci siamo sciolti ed è stato proprio peso nel cuore. Però vabbè, capita. Poi nel frattempo ho suonato anche con altri gruppi, sempre diciamo un po' più metallaretti, chiamiamolo così, e sempre comunque chitarra. E poi insomma, ecco, come dicevo prima, le cose finiscono e quindi ho detto boh, suoniamocela, cantiamocela da sola, vediamo che succede. E quindi niente, avevo questa abitudine, ma anche mentre suonavo con i gruppi, di registrarmi su dei nastri, magari degli arpeggi, poi fare play e farmi tipo i soletti a casa, però era una cosa tipo così. E invece poi a un certo punto ho scoperto l'esistenza di un Tascam, che sarebbe tipo un multitraccia a quattro piste, e lì potevo fare questa cosa estesa per quattro volte, cioè mi si è aperto veramente un mondo. E infatti il primo pezzo di questo progetto, che in realtà non so neanche a che anno risale, però era molto vecchio, si intitolava Nine Guitar Symphony ed era praticamente una sorta di sovrapposizione di 9 chitarre classiche una sull'altra. E opinabile, nel senso, non lo so cosa è uscito fuori, a me piaceva tantissimo, però era tutto un po' così. E da lì praticamente, quando poi ho preso la mia nuova chitarra elettrica, l'ho chiamata 9, e da lì poi c'è il secondo CD che si chiama 9, proprio perché è dedicato a questa chitarra, che dietro ha questa cosa dell'incarnare, diciamo, il massimo della sovrapposizione sonora che avevo fatto fino a quel momento. Poi è stato superato, nel senso che nell'ultimo disco, cioè nel secondo, quindi arriviamo, no, a sì, oggi sì, con questo nuovo più disco. Che oggi questo risale al, è uscito l'ultimo, nel, diciamo, sì, oggi è in il questo secondo. Senso, poi ci racconti il film, insomma. Sì, quello presente, che sta accadendo. Ci fermiamo lì, e appunto con questo album che si chiama appunto 9. Sì. E, allora ci andiamo ad ascoltare appunto una delle canzoni di questo CD, che è Ipnotica. Se ti va insomma di raccontare anche com'è nata questa traccia, come... Guarda, in realtà quale momento? Visto che la trasmissione è proprio i sogni, in realtà tutto è... Non lo so cosa facevo, però tutto nasce sempre da periodi non estremamente felici della vita, quindi insomma varie cose. Diciamo che tutto il lavoro di 9 è proprio una sorta di iniziazione a un tipo di percorso che poi ho intrapreso realmente, cioè quello di comunque vagare nel mondo dei loop senza ritorno e non lo so, no, forse in quanto viaggio si tornerà anche indietro, però non lo so ancora quando. E niente, è tutto, diciamo, un concetto sul Nova. Infatti il disco è diviso in tre parti, ogni parte ha tre tracce e ogni brano inizia con la nona lettera dell'alfabeto, insomma, pippe mentali su pippe mentali e nulla. Ipnotica è il secondo, e diciamo che il disco il secondo della il secondo, prima il secondo brano di tutto il disco, sì. E praticamente il primo è un brano soltanto di voci. Ipnotica è praticamente il primo approccio con la chitarra, infatti è un brano che inizia con una chitarra acustica, poi diventa distorta, invece le altre tracce sono tutte elettriche e c'è, diciamo, tutto un escalation di suoni. Quindi la terza traccia è un omaggio a Isaac Albeniz, che scrisse questo brano Asturias, che era una sorta di cult nel mondo dei chitarristi, nonostante fosse poi un brano scritto per pianoforte, però Segovia lo trascrisse per chitarra e divenne una sorta, chiamiamolo standard, anche se è un po' scorretto chiamarlo così. Quindi c'è comunque un omaggio proprio al mondo dei chitarristi, così. Poi c'è un omaggio al metal, in particolare c'è una citazione anche di un gruppo storico degli anni 90, Concrete, che insomma scena hardcore molto bella di Roma, e che sono gli attuali, cioè parte dei componenti formano attualmente una band che si chiama Sino Sadesis. Tra l'altro ci suona il batterista col quale suonavo nei 777 attualmente, cioè no, adesso è andato a vivere a Bruxelles, quindi c'è un altro batterista, però prima ci ha suonato lui, sì. E niente, c'è tutta un'escalation di varie emotività, vari crescendi, diminuendi. Vabbè, ma anche mentre la descrivi, diciamo, si vede che insomma c'è, sono varie emozioni, è figlio che... mio. Cioè, si vede, cioè, si sente per chi ascolta. Viscere. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare e poi continuiamo l'intervista con Lili. Thank you. Rieccoci qui a Radio Onda Rossa con Mamma Trona, abbiamo con noi Lily Refrain. Allora, continuiamo appunto l'intervista un po' da dove eravamo rimaste, quindi un po' il ruolo della musica appunto con le questioni personali, come in qualche modo tutti e due gli ambiti si vanno a mescolare. Incastrare sì, mescolare. Sì. E si influenzano nettamente a vicenda, nel senso che prima c'è la vita, le varie emozioni positive e negative che... scaturiscono stati emotivi di conseguenza, e poi arriva il momento della musica. Come ti dicevo un po' prima, invece di scrivere un diario e scrivere le cose che ti succedono, mi capita, cioè diciamo che riesco ad esprimermi meglio traducendo questa cosa in suono piuttosto che in parole, e mi dà anche molta più soddisfazione, perché comunque è proprio un atto fisico anche il suonare, quindi effettivamente ti sfoghi, di conseguenza poi stai meglio ed è bello. E poi boh, l'aspetto che mi piace maggiormente è comunque la condivisione, proprio anche il fatto di suonare dal vivo, cioè piuttosto che sì, registrare il disco ok, però poi andarlo comunque a fare, quindi il contatto anche con gli altri, sapere, non so, compartecipare di questa cosa, che magari potrebbe sembrare un atto un po' egoistico, però in realtà è come cercare di richiudere tutti all'interno di una stessa bolla, no? E l'empatia, diciamo, anche sì, con sì, sì, esatto, esatto. E molte volte funziona, cioè tipo gente che piange. Beh, no, dipende, insomma. Però è bel, nel senso si crea effettivamente un bel punto di empatia comunque, sì, comune di, sì, la musica, quindi... una delle funzioni che ha è proprio questa, sì, esatto, se la catarsi musicale e rituali. E appunto, a proposito di live, no? Una domanda che ho fatto anche a loro, com'è, nel senso, rispetto a una città come Roma, trovarsi a suonare nei locali o comunque nei posti dove si dovrebbe, no, fare cultura, musica, sì. Come ti sei trovata in questi anni? Allora, non ho suonato soltanto a Roma, ma cerco comunque di suonare ovunque, quindi sì, comunque mi è capitato negli ultimi 5 anni di suonare un po' in tutta Italia e anche fuori in Europa, cose così. E a Roma, se non fosse per il Vaticano, il Parlamento e il sindaco attuale, sarebbe una città splendida, bellissima. In particolare il sindaco attuale, non per fare polemiche, per carità, stiamo parlando di musica, però sto stronzo, si può dire? Ma sì, vabbè. Hai detto sonso. Ho detto sindaco. Sonso. Però diciamo che ultimamente, oltre che a Roma, un po' in tutta Italia sta succedendo questo tristissimo fenomeno di cercare di evitare l'aggregazione di massa sempre di più, quindi i concerti ovviamente fanno parte dell'aggregazione di massa, e questo spinge a creare sempre più ostacoli a chi gestisce comunque sia la programmazione di una serata che la gestione di un locale, e ovviamente tutte queste cose ricadono sia su un pubblico che vorrebbe andare ad ascoltare i concerti, ma magari poi te chiude il locale, oppure orari bislacchi, non ci arriviamo coi soldi, non si capisce, che i musicisti, che ovviamente a volte si trovano comunque a suonare in situazioni veramente rocambolesche, però, cioè, che fai? Lo fai, perché comunque quello che ti va di fare è suonare fondamentalmente. Poi la cosa è cercare di poterci lavorare, è molto difficile a Roma, perlomeno, perché come diceva prima anche Matteo, c'è in parte una sorta di amore sviscerato per l'esterofilia. Quindi di solito il gruppo romano è sempre, diciamo, in apertura, però è un po' sempre in ombra, mentre quando vai fuori a suonare comunque sei te che vai fuori a suonare e non devi dar conto a nessuno. Questa cosa a Roma l'ho notata molto spesso, tranne in ambienti di festival come per esempio, ne so, la Lady Fest o il No Label, che c'è stato da pochissimo e che ha ospitato quasi tutti i gruppi comunque del panorama indipendente di tutta Italia. C'era gente che veniva dalla Puglia, dalle Marche, da Milano, insomma c'era veramente un sacco di gente. E l'ostacolo, secondo me, sono proprio gli spazi, nel senso che è sempre più difficile riuscire a trovare un luogo realmente adibito in modo professionale al suonare, perché molto spesso ti trovi comunque sia, appunto, cioè c'è questa carenza di spazi, e quindi vai a suonare comunque nei centri sociali, che per fortuna continuano a resistere nonostante tutte le paturnie, in associazioni culturali che ovviamente hanno mezzi comunque, insomma, sì, cioè, quello che c'è. E questa cosa sì, è bellissima, ma dal punto di vista tecnico a volte potrebbe, insomma, ostacolare, certo, magari sia l'ascolto che l'esibizione stessa. però va bene, ok, poi c'è tutto comunque quello che gira intorno al fare il live, cioè il prima e il dopo, che è la cosa poi fondamentale, quindi i contatti umani, sapere cosa c'è dietro a comunque lo sbattersi per organizzare una serata e anche andarseli a prendere. Quello che diceva prima Matteo, per esempio, è vero che Roma è molto dispersiva, ma è anche vero che è poco organizzata, nel senso che ci sono un sacco di locali, anche limitrofi tra loro, che potrebbero tranquillamente evitare di farsi concorrenza. Per esempio, che ne so, c'è una serata al locale Tal dei Tali, cioè se c'è un bel gruppo al locale Tal dei Tali, evita di fare un altro bellissimo gruppo nell'altro locale Tal dei Tali alla stessa ora, allo stesso giorno, magari fallo un giorno dopo. E non lo so, nel senso, la gente secondo me ci va ai concerti, non tantissimo, però cioè, comunque ci va e vuole andare ai concerti. Quando succedono delle cose, cioè a Roma o non succede un cavolo, oppure ci sono tre serate incredibili lo stesso giorno e dici adesso dove vado, che faccio? Ed è un po' triste questa cosa, si potrebbe tranquillamente evitare con un po' di organizzazione e anche osservazione di quello che c'è intorno. E poi che dire, altre cose su Roma. Non funzionano gli autobus. Quello lo sappiamo. E io mi muovo in autobus. E sono anche aumentato il biglietto. Adesso costa 1,50 euro. Tra l'altro io prendo sovente il 60 e mo passa veramente poco. E questa cosa è una piaga sociale. Il traffico. Sì. E poi il 60 non era l'autobus famoso di Rino Gaetano. Esatto. Sì, anche Rino Gaetano, vero, vero. Da te. Va bene. Non so, poi nel senso, comunque, infatti, appunto, a proposito di queste cose, abbiamo anche sponsorizzato l'altra volta, diciamo, le serate, gli eventi a spazio aperto. Assolutamente. In cui tu hai suonato. Per esempio il Dal Verme, il Pigneto Spazio Aperto, che poi è gestito anche dai ragazzi del Dal Verme, è uno di quei posti piccolini al Pigneto, con un livello d'umanità incredibile in bene e un livello di artigianato alcolico ma proprio indescrivibile, si beve una birra veramente assurda e non solo quello. E la programmazione che fanno è fantastica, ma si vede anche adesso, mi pare fino al 10 agosto forse c'era la programmazione aperta lì allo spazio al Torrione, e cioè portano dei gruppi incredibili, cioè finalmente qualcuno che veramente ci tiene anche al panorama indipendente, e loro ci tengono parecchio perché comunque ne fanno parte. Tony e Andrea suonano nell'Hiroshima Rocks Around, insomma in realtà a Roma c'è proprio una scena bellissima a livello musicale, anche a livello qualitatevole, ma anche a livello proprio creativo, cioè nel senso non solo ci sono musicisti veramente capaci di fare musicisti, ma ci sono musicisti che comunque non si fermano ai classici cliché di genere, per dire, ci sono musicisti molto bravi che magari si relegano all'interno di un panorama specifico piuttosto che un altro. Cioè a Roma c'è, per dire, non voglio togliere perché la lista è lunghissima, però per dire, i vari progetti di Rix, che è un genio, o i Juggernaut che avete intervistato un po' di tempo fa, l'Inferno, gli Heisenberg, cioè ci stanno veramente un sacco di belle personcine capaci che però rimangono un po' nell'ombra perché mancano spazi cioè essenzialmente è quello. E vabbè, quindi io passerei anche a, insomma, la terza parte del tuo 9, quindi all'incantesimo. Ci vuoi parlare un po' di Ictus, che è una canzone? Sì, cioè, lì mi anche piace, c'è moltissimo, tra l'altro. Grazie. Allora, Ictus è, diciamo, il brano ballereccio della cosa, ed è un del CD, ed è un brano dedicato alle pulsazioni, quindi non c'entra niente con le malattie o cose del genere, ma è proprio una cosa di good vibration. E c'è una citazione che è Nino Rota, il padrino. E mi piaceva, diciamo che è un brano che nasce da, allora in realtà ogni brano, nonostante non abbia parole, nasce proprio da una cinematografia mentale, un po' come i sogni, quindi c'è una storia dietro qualsiasi cosa, e quello, il sottotitolo è Compulsive Techno Massacre, è tipo proprio un'ostentazione contro la CIA in particolare, quindi ti cito apposta e poi arriva il devasto. E questo perché infatti dicevi ci stanno un sacco di citazioni. Sì, ci sono moltissime citazioni a, vabbè, dai Beatles ad Albeniz, a Fra Martino Campanaro, a Il Padrino per l'appunto, poi altro, i Concrete ovviamente, c'è una parte di Bleeding Green, e poi che cos'altro c'è, poi forse, e ovviamente c'è l'Arrotino, c'è un brano che finisce con, anche quello è molto cinematografico da certi punti di vista, e sì, insomma, era da citare perché anche quello faceva parte un po' del repertorio adolescenziale, infantile soprattutto, quindi insomma, essendo un'autobiografia ci stava. È partita Ictus, quindi sentiamocela. Sì. e dopo una, come, manco mi ricordo come si chiama, imperativa. Imperativa, esatto, che lo chiamo il manifesto dello shipping. E dopo imperativa c'è ictus. Thank you. quasi al termine appunto di questa puntata di Mammatrona, l'intervista di Lily Refrain. Ti chiediamo appunto, già un po' l'abbiamo accennato prima, quali sono i tuoi progetti futuri, a cosa guardi? Allora, attualmente sto registrando il mio terzo album, infatti fra un po' andrò in sala all'Ombre Lobo Studio, e dove ho registrato anche gli altri due album. Ambiente incredibile, persona fantastica, in particolare c'è Valerio Fisic che sta seguendo la fonia di tutto questo lavoro. E nulla, adesso diciamo che ho fatto una pausa dai vari live che prima, cioè diciamo che per due anni ho suonato ininterrottamente un po' dappertutto, e adesso invece ho detto no, aspetta, è arrivato il momento di ridare, e quindi sì, mi sono fermata un attimo a registrare. È un totale, al momento sono, è ancora un work in progress, non saprei cosa dire su questo disco, se non, cioè penso che quando sarà finito capirò che cosa ho fatto, però per il momento ancora non lo so. Mi dispiace, però. Va bene, così. Quindi insomma stai lavorando comunque a un progetto nuovo, e sì, questo è sempre sì, buono, non so insomma, quando uscirà. Progetti futuri sono quelli poi magari di trovare persone che insieme a me vogliano promuoverlo bene, insomma, poi ovviamente concerti e continuare con e via così questa, la vita, la vita musicale e non. E allora ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano appunto di Nove, che è Illudia, e la famosa citazione dell'Arrotino. Perché prima l'hai detto, sì. Quindi la voglio ascoltare assolutamente. E con questo ci salutiamo sia con Lily, ma insomma Mammatrona chiude questa puntata di quasi un'ora e mezza. e niente, ci vediamo alla prossima incursione che faremo chissà quando e chissà dove. Ciao, grazie. E buoni sogni a tutti, grazie a Lily. Ciao. No, prima si parlava di questa cosa, che a proposito della trasmissione sui sogni, questo brano effettivamente nasce proprio da un sogno ed è una sorta di corsa su queste colline bellissime così, e arriva l'Arrotino che ti sveglia con i coltelli per la seta e per il prosciutto, quindi delicatezza estrema e brutalità.